Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Mauro Comes in regia. C'è chi già via sms 349-238-6666 manda la ricetta per la finale di Champions League, che è questa: la mia coppia preferita per l'anno prossimo, Jovetic più Cavani, poi Asamoah, Verratti, si tiene Marrone e si richiama Immobile. Finale di Champions fatta, ovviamente in chiave bianconera. 348 800 24 0024 è invece il vostro numero verde. Mentre c'è chi sogna in bianconero, l'Inter è in raccolta del grano in questua a Jakarta in Indonesia, tournée che vale 2,5 milioni di euro. Serviranno da infilare nel salvadanaio e poi spaccarlo per fare il mercato. Intanto, per la gioia di Gasperini, un anno dopo arriva Palacio, ma il mistero resta fitto. Me lo chiedono almeno in 20 al giorno. Cosa fa l'Inter sul mercato? Credo che anche per Marco Barzaghi, collega dei media, sia una domanda abbastanza ricorrente. Ciao Marco. Buon pomeriggio a tutti, intanto grazie della chiamata, che per me vuol dire tanto, visto che sono cresciuto con A Tempo di Sport, quindi sì. Tornare su queste frequenze è emozionante. Piacere nostro, Marco. Alla fine io penso che i tifosi dell'Inter devono stare tranquilli, perché c'è amore, nel senso che come partito il mercato dell'Inter testimonia con il riscatto di Guarin e l'acquisto di Palacio, una più di 20 milioni spesi, vuol dire che Moratti è innamorato di Stramaccioni come lo era di Leonardo, come lo era di Mourinho, e che quindi farà tanti sacrifici nonostante non sia arrivata la qualificazione alla Champions League. Quindi questo è un buon primo punto di partenza, nel senso che si era visto con Gasperini, con Benitez, zero acquisti, zero richieste soddisfatte, e poi anche i risultati sul campo si sono visti. Quindi il buon primo punto di partenza è che c'è questo innamoramento con l'allenatore, e già questa prima richiesta a Palacio è stata soddisfatta, che 11 milioni di questi tempi sono tanti, soprattutto per le casse dell'Inter. Poi in base a quello che mi arriva, ci dovrebbe essere anche un ingresso di investitori stranieri che potrebbero dare un'altra mano notevole per chiudere altre operazioni importanti. La prima, quello di Lavezzi, poco fa l'apertura, diciamo, del portone di Corso Vittorio Emanuele l'ha fatta addirittura Tronchetti, sì. Provera ha detto: se non viene sbaglia, è un grandissimo. Quindi dopo un'apertura del genere, anche la strategia per arrivare alla Lavezzi mi sembra abbastanza chiara. Se vorrà venire all'Inter avrò piacere di abbracciarlo, se no è una scelta sbagliata che è libero di fare, ha detto Tronchetti Provera. Derby sotto passaggio di San Siro, io saluto tutti, poi Nesta lo conoscevo, ti ricordi? Così, più che conoscevo e ti ricordi. E da lontano mi sento Strama, mi giro, Cassano. Oh Strama, bene, oh. Non so se sia un grande tecnico. Di sicuro potrebbe avere un futuro da cabarettista, Stramaccioni, caro Marco. Diciamo che anche durante le ultime conferenze stampa ha fatto un po' di cabaret, non so, con l'imitazione di Moratti, anche milanese, questa di Cassano. Si è subito inserito benissimo, è stato in questo anche molto intelligente con tutta la squadra, con i dirigenti, con Moratti in primis, e soprattutto è riuscito, per dire, anche a ritrovare Snyder che qualche giorno fa ha detto: dopo Mourinho, Stramaccioni è il tecnico top, quindi sì infatti mi spiace, guarda Marco, mi spiace che sia stato, che siamo riusciti a proporvi solo un frammento di queste battute di Stramaccioni, ma c'è anche l'altro. E allora, a proposito di questa conoscenza tra Cassano e Snyder, sentiamo ancora Stramaccioni. Bene, sì, non so. Bene, dico sì, fai, sai, una situazione un po' difficile. Ma che cazzo ti frega? Ma qua bene, fa ma guarda qua, guarda che nel calcio, se fai bene, parano subito, i giocatori parano subito. Io abbiamo due piani sopra Wes mi ha detto, questo qua è un fenomeno. Questo, dico, forse Wes ha un po' esagerato. Oh, Wes, guarda che non ha retta manca a padre e la madre, Imperdibile, eh? Io questa me la tengo, caro Marco. Ma cazzo te ne frega? Cazzo, se fai bene pagano subito, eh? Sembra Checco Zalone, è meraviglioso. Guarda, io ero indeciso quando l'ho visto per le prime volte, ero indeciso se attribuirgli una somiglianza più marcata a Mourinho o a Mr. Bean. Adesso non ho dubbi. Mr. Bean? Tutta la vita. Tutta la vita. Comunque anche molto Mourinho, come si atteggia soprattutto in panchina, sì. Alcuni gesti che fa sono veramente molto simili. Sì, dicono che Pazzini intanto abbia preso casa a Napoli, è un'altra battuta alla Stramaccioni questa? Ma a me risulta che abbia disdetto quella di Milano e su questo sono abbastanza sicuro. Sul fatto che possa rientrare nella trattativa Vallavezzi c'è un grosso problema, che sono i 3,5 milioni di ingaggio che prende Pazzini, che sono fuori da qualsiasi tipo di idea di De Laurentiis, quindi non lo so se si potrà intavolare una trattativa con Pazzini, suo agente, magari sottoponendogli un contratto molto più lungo a cifre minori, però questo è un grosso scoglio da superare e anche dell'Inter per cercare di vendere un attaccante che vuole più spazio e non ne avrà all'Inter perché Milito è titolare inamovibile e soprattutto ha un ingaggio pesantissimo. Certo, certo, anche se ha muscoli fragili e quest'anno se ne sono accorti. Un'ultima cosa, prendo spunto da un messaggio SMS che mi arriva. C'è chi scrive: secondo me Silvestre è più forte di Ranocchia. Perché Ranocchia, giocatore che a me piace molto, è caduto in disgrazia nell'Inter? Ora andrà via Lucio, io credo che quella maglia dovrebbe essere sua, no? Sì, penso che la società voglia comunque tentare di ritrovarlo, magari confidando anche in un buon europeo, in quello che farà con la nazionale di Prandelli. Ma io per la sua caduta in disgrazia ho questa immagine: dopo il gol realizzato a Cesena prima di Natale, partita dopo in tribuna, quindi da lì tutte le sue convinzioni, la sua fiducia è crollata e poi si è visto in campo i tanti errori, un giocatore che ha avuto poche possibilità di giocare titolare, quando l'ha fatto era troppo, diciamo, impaurito, pauroso di sbagliare e poi i danni si sono visti col Palermo, poi insomma... Perso fiducia. Non l'ha mai avuta. Non è un ragazzo, probabilmente un giocatore dal carattere così forte, però secondo me è un giocatore di grande talento, un difensore di grande talento, che vicino a uno come Samuel insomma, può prestargliene un po' di quel carattere che ha. Grazie a Marco e bentornato. Ci risentiamo. Grazie a Marco Barzani. Grazie a Marco Barzacchi da Mediaset. Dunque, adesso ci fermiamo, poi vi dico che vi parlerò di Sbarbatelli. Uno degli Sbarbatelli a cui mi riferisco, naturalmente, non è compreso Balotelli, che oggi in chiave azzurra ha detto: è l'occasione per me, l'occasione della vita, ripagherò Prandelli in coppia con Cassano, e che ce la mandino buona dal cielo, perché coppia Balotelli-Cassano a me piace molto, però è un rischio in ogni momento. Zeman dice: io sto bene a Pescara mentre mezza Italia calcistica lo vuole. Anche ieri Prezioso gli ha fatto i complimenti, sarebbe il mio allenatore ideale, la Lazio lo vorrebbe, eccetera eccetera. È il suo momento, è il momento di Zeman, anche in chiave Sbarbatelli, di cui tra poco parleremo. Poi c'è Galliani, che questa mattina ha già tagliato la testa al toro sul mercato del Milan. Aquilani non lo riscattiamo, Merkel va al Genoa e Sharawi resta di Maxi Lopez, non sappiamo cosa farcene. Questo ha detto chiaramente Adriano Galliani. Allora, prima ascoltatrice, mi fa molto piacere, 800 24 00 24, numero verde, Rosanna da Imola, provincia di Imola. Buongiorno. Le volevo dire una cosa in proposito dell'Inter. Però prima dell'Inter mi dica un po' dalle sue parti come siamo messi. Dell'Inter? No, dell'Inter. No, di quello che è successo nei giorni scorsi. Io veramente sono di provincia di Imperia. Ah, di Imperia. Da Sanremo. Hanno sbagliato a scrivere. Mi fanno anche fare una domanda fuori luogo. Qua siamo messi male anche noi, non si creda. Perché? In Liguria. Perché il lavoro agricolo si è ridotto all'osso. Per tanti motivi. Certo. No, io volevo dire dell'Inter, che io sono tifosa dell'Inter da quando ero piccola, quando c'era Boninsegna, sì. E non è più la stessa Inter. Mi dispiace per Moratti, che ha speso un po' di soldi per niente. Beh, insomma, è sempre innamorato di persone che poi non gli rendono, come tipo Balotelli. Gli ha dato troppi soldi a Balotelli, e tanti neanche presi con la cessione, sì, neanche di presi, però guardi, l'Inter di una volta non c'è più, guardi. Mi piace per Moratti, ma può fare quello che vuole, ma l'Inter, se non prende dei ragazzi giovani. Ma io dico, cioè, sempre va bene prendere ragazzi giovani, perché questa è anche la tendenza del momento, però che siano bravi sì, però vede come l'ha ripagato Balotelli e tanti altri, eh. Quando va da l'Inter sono tutti morti, mi scusi, ho fatto caso. Tutti. Beh, insomma, mi sembra che Eto'o, tanto per dirne uno, fosse discretamente vivo, no? Mi sembra che, insomma, Snyder fosse discretamente vivo. Mi sembra anche, Rosanna, nonostante la sua malinconia un po' ligure, mi sembra anche che con Mourinho, ma anche prima con Roberto Mancini, insomma, non siano stati soldi proprio buttati senza ritorno. In precedenza sì, probabilmente, ma in quegli anni, soprattutto in quelli di Mourinho e soprattutto nell'ultimo di Mourinho, non mi sembra sia stato proprio un disastro, ecco. Quindi è chiaro, non sarà più dal punto di vista del glamour l'Inter di Buoninsegna, ma non è tutto diverso, è diverso non solo l'Inter ma tutto il resto, quindi capisco questo afflato di nostalgia, però non penso ci si possa lamentare delle ultime stagioni interiste. Andrea Ravenna. Buongiorno dottor Genta. Buongiorno a lei. Senta, volevo fare due considerazioni sul calciomercato della Juve. Prego. La prima, che mi pare sia l'unica che ha che ha qualche quattrino da spendere. Come? Che mi sembra sia l'unica che ha qualche quattrino da spendere. Ecco, spero che le spenda bene. Contrariamente a due anni fa. Vabbè. La prima considerazione era questa. Mi sembra che abbia una sorta di atteggiamento schizofrenico nei confronti dei giovani. Nel senso che c'ha un ottimo vivaio ormai da anni e non riesco a capire perché continua a lasciarli in giro addirittura, cioè adesso a parte i casi di Nocerino, i vari Cassani, Aronica, Balzaretti, ma non capisco il senso dell'operazione di dare Giovinco in comproprietà e addirittura questa operazione di Immobile. Francamente è incomprensibile, cioè che senso ha da un lato Andrea, Immobile al Genoa? Quello poco senso, però l'idea di comunque la Juventus sono diverse stagioni che comunque produce giocatori di livello, diversi sono in squadra, è troppo facile fare il nome di Marchisio. C'è De Ceglie, c'è questo Marrone che arriva da lì, insomma, poi l'idea di prestare questi giovani, poi sulla formula si può discutere, l'idea di prestare in giro, di far viaggiare questi giovani in squadre in cui possono trovare campo e quindi confrontarsi in campionati competitivi, possono diventare grandi, possono diventare da ragazzini a primavera a giocatori, non la trovo così bizzarra, anzi mi sembra la soluzione giusta. Poi è chiaro, insomma, si tratta di crederci fino in fondo, in qualcuno la Juventus ci ha creduto fino in fondo, in altri un po' meno. Mario, Napoli, eccoci lì. Salve, buongiorno. Buongiorno. Saluti a tutti e voglio intervenire in merito al fatto che ogni stagione quando finisce il campionato si parla di Napoli sempre per giocatori in uscita. Mi sa che invece il Napoli è forse una delle poche squadre ad alti livelli, almeno per il campionato italiano, che in questi ultimi anni sta acquistando. Come mai si pone sempre questa questione, va via l'anno scorso Amsic al Milan, Lavezzi, Cavani, probabilmente qualcuno andrà via, ma non è così scontata la cosa. Non è così scontata, beh Lavezzi mi sa di sì. Vabbè. Lavezzi mi sa di sì, però Mario, una squadra da tre anni a questa parte mi sembra una buona media in uscita. Sì, non c'è dubbio, si sta parlando dei tre giocatori più importanti, no? Delle tre superstar del Napoli, si sta parlando anche di una politica societaria che è fin qui stata estremamente chiara, cioè con un tetto salariale preciso agli ingaggi dei giocatori. E quindi con voci di mercato che a quel punto diventano fatalmente inevitabili, e questi discorsi riguardano appunto le tre superstar del Napoli, che non guadagnano tantissimo ovviamente in proporzione per quanto riguarda ovviamente il mondo del calcio, però la politica societaria è sempre stata questa. Infatti io dicevo ieri o l'altro ieri, non ricordo, che la Coppa Italia è una sorta di bivio anche dal punto di vista della politica del Napoli, perché se vorrà trattenere Cavani dovrà dargli dei soldi da superstar. Io voglio vedere Lavezzi, secondo me ha ragione Maradona nel dire non ci sono più margini di crescita per Lavezzi al Napoli e per il Napoli con Lavezzi. Mi sembra che il Napoli abbia già provato a tutelarsi, non ho capito con quali risultati con Vargas, però la scelta di cedere Lavezzi mi sembra fisiologica. Ora voglio vedere se riescono a trattenere Cavani, che la Juventus vorrebbe con grande ragione, perché sarebbe il giocatore perfetto per la Juventus di Conte. Ma noi ringraziando il cielo siamo il Napoli e non è che ci abbiamo qualche problema. E se abbiamo i problemi noi, che abbiamo i conti a posto, che abbiamo fatto un bellissimo campionato, che ci siamo divertiti in Europa, che abbiamo vinto la Coppa Italia, ma allora tutti gli altri si dovrebbero, chi non ha vinto lo scudetto si dovrebbe suicidare. E la cosa molto bella è che a noi ci fanno vendere tutti quanti, no? Ricordate l'altro anno quando si sono messi in testa che Hamsik doveva andare al Milan? Hamsik sta qua e ha firmato con noi, ma ha firmato con me da ottobre, ma io non mi sono mai permesso di dirvi, perché non ho bisogno di dirlo, non devo far star tranquillo nessuno, sono io che devo star tranquillo. Lei sa che di fronte ai pazzi non c'è ragione che tenga, quindi se ci sarà un'offerta folle non ci sarà ragione che tenga. Però io sono 8 anni che vi vedo, 8 anni che non vi piango, ma che vi ripeto le stesse cose: mettere denaro, vedere cammello, ma cammello, io sto cammello non vedo mai. Confessare che dal punto di vista della comunicazione De Laurentiis è uno dei miei idoli sportivi. L'anno scorso ci ha regalato un'estate indimenticabile, una perla al giorno. Quest'anno ha cominciato così, un po' soft secondo me rispetto agli standard abituali, a parte questa del denaro e del cammello, però io credo che in questa trattativa con Cavani ne sentiremo, non solo vedremo, ne sentiremo delle bellissime. Felice Busto Arsizio, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono d'accordissimo con lei per Cavani della Juve, volevo parlare del mercato della Juve. Sì. Però alla fine so che il Napoli non la mollerà. Ma ha sentito De Laurentiis? Ha sentito De Laurentiis, che ha detto se arriva un'offerta, non ricordo l'aggettivo, pazzesca, irrinunciabile, folle, allora se ne può parlare. Senza dimenticare che insomma che Cavani, se resta al Napoli, credo busserà casso, credo l'abbia già fatto, perché mi pare guadagni 2,5 milioni all'anno. E per una superstar del calcio internazionale ormai è pochino, no? Mi fa venire i brividi di dire una roba del genere, però è così. Quindi già la storiella, ma soprattutto i modi in cui è stata tirata fuori da Cavani alla vigilia della finale di Coppa Italia, la storiella dell'Olimpiade, io ci vado e l'ho detto, se non mi fanno andare faccio casino e ci vado lo stesso. Insomma, sono tutti piccoli segnali che mi portano a pensare che sarà un'estate intensa intorno al nome di Cavani. Poi? Vabbè, comunque, ma perché la Juve non tenta di prendere Fernando Torres? Questa potrebbe essere un'idea. Fernando Torres è un giocatore misterioso. È un giocatore ideale. Ho capito, è ideale, però è in crisi di identità ormai da moltissime stagioni. Quindi quello potrebbe essere. Guadagna tanti soldi Fernando Torres, cioè lo devi comprare pagandolo come un campione. In questo momento non lo è. È un panchinaro e sono ormai diverse stagioni, è diverso tempo che ha iniziato questo declino. È chiaro che se è il Fernando Torres dell'Atletico Madrid del primo anno al Liverpool è un conto, se Fernando Torres è una riserva del Chelsea o del Liverpool stesso, allora diventa un'altra storia, soprattutto per ragioni di costo. Però è un altro giocatore che come caratteristiche sarebbe perfetto là in mezzo nella Juventus di Conte. C'è un ascoltatore che mi invita a ripassare la geografia, cosa che farò con estremo piacere. Non capisco però da dove arrivi questo invito. Lo stesso ascoltatore scrive anche: calcio, calcio, calcio, sapete parlare solo di calcio. Non è molto attento invece lui, perché ogni giorno vediamo tracce e voci di altri sport. Vedendo la mia condizione, che comunque non era al top, sapevo che dovevo dare comunque il meglio di me, come a livello di aggressività, di gestione della gara, e dovevo fare tutto bene per la condizione che ho per poter vincere la gara, che una gara che sapevo che si poteva vincere. Io ho lavorato per fare un tempo e ancora lo sto inseguendo. La medaglia chiaramente è una grande cosa, però anche l'europeo era il livello era un po' ridimensionato. È una bella medaglia, una bella soddisfazione, però era abbastanza facile. Dico due cose. La prima, che credo, indipendentemente dal fatto che chiaramente l'umore e l'entusiasmo circoscritto, perché è gara 3, credo che sia stata una partita molto bella, e questo credo che vada dato merito a Cantù e ai miei giocatori. Lasciatemi cominciare facendo i complimenti alla Reyer per la grande stagione, al suo presidente, al suo general manager, al suo allenatore, al suo pubblico, a tutti i giocatori. Hanno veramente onorato la pallacanestro tutto l'anno e oggi, quindi sicuramente averli battuti alla fine di una partita difficilissima e aver vinto 3-0 contro di loro è un punto di soddisfazione in più. Li avete riconosciuti? Sì o no? Erano scozzoli oro ieri agli europei di nuoto, pesce, medaglia di bronzo. Sempre per gli europei di nuoto vi do anche la cronaca più recente con Arianna Barbieri, che ha nuotato in maniera magnifica, nuovo record italiano sui 100 dorso, 1:00:62. E dunque qualificazione olimpica acciuffata. Stasera c'è Pizzetti nei 1500 stile libero e dunque stiamo attenti a ciò che succederà oggi in vasca a Debrecen in Ungheria. Poi non so se avete riconosciuto coach Dal Monte della Scavolini Pesaro, che ieri è andata sul 2-1 nella serie con Cantù, battendo appunto la squadra di Trinchieri che li aveva asfaltati in gara 2. E poi c'era Scariolo, che invece è già in semifinale 3-0 sulla Reyer Venezia. Dunque agli altri sport stiamo attenti, anzi molto attenti. Vi dico anche che nella notte Miami ha battuto 115-83 Indiana, sempre a proposito di basket, 3-2 nella serie per LeBron e i suoi fratelli, 30 di LeBron e 28 di Wade. Siete contenti? Adesso però, l'ho anticipato prima, voglio parlare di Sbarbatelli. 800-24-0024. Siamo orgogliosi di noi stessi, di quello che è la città di Pescara, di tutta la dirigenza, lo staff che ci ha sempre sostenuto, e ovviamente questa vittoria va a tutti. Dopo che ho visto che festeggiava il Torino in camera, visto che è mobile, ho detto: Ciro, andiamo in campo che oggi tocca a noi, e siamo stati bravi a lottare fino alla fine. Grazie ai miei compagni, ho fatto anche 18 gol, e ringrazio tutta la squadra, il mister che pure la società che mi ha dato fiducia sia dall'inizio, ringrazio a tutti. Sempre detto, non me lo sono potuto andare qui, gli anni quando è fallito, figuriamoci adesso, che penso che è la cosa più bella che ci sia per un giocatore, deve far giocare la propria città. Chissà se il mio amico Paolo Ghisoni li ha riconosciuti. Non sono d'accordo sugli Sbarbatelli, Come? Non sono d'accordo su Sbarbatelli, però, Oramai questi la barba ce l'hanno. Ma non stavo parlando di loro. Stavo parlando di quelli che cantavano. Ah, perfetto. Li ha riconosciuti? Assolutamente sì. Sì? Immobile, sicuro. Sì. Verratti, che era il terzo. E poi mi pare Insigne, perché c'è bravissimo. Il bravissimo. Napoletano. Bravissimo, Immobile, Insigne e Verratti. Ma quelli che cantavano chi erano? Quelli li hai riconosciuti? No, quelli no. Ma loro erano gli Sbarbatelli, gli Jenson, gruppo anni 90, dovresti saperlo. Sì. Sì, lascia stare. No, invece parlami di questi. Parlami di questi perché i tre Paperotti di Pescara diventano i piccoli re di un mercato nel quale a occhio e croce solo la Juventus campione ha qualcosa da spendere. Io ho naturalmente in mano il tuo Giovane Italia 2011 che sarà il caso di aggiornare. Sì, 2012 esce il 25 giugno. Molto bene. Allora, in questo libro racconti per ragioni di età soltanto Verratti. Chi ricorda David Pizarro? Dove deve migliorare? Deve migliorare tecnicamente il piede sinistro. Concordi con questi giudizi che hai scritto un annetto fa con Stefano Nava? Sì, concordo, anche se Marco ha iniziato a giocare in quel ruolo che bene o male lo ha rivelato quest'anno come diciamo un playmaker basso davanti alla difesa. Effettivamente rispetto a Pirlo o a Pizarro deve migliorare questo aspetto, cioè lo scarico del pallone con pochi tocchi finora lo fa bene, ma solo con un piede. Per arrivare a dettare i tempi di una grande squadra bisogna, diciamo, sgrezzarsi anche da questo punto di vista. È un giocatore che ha iniziato lì, è stato poi portato in prima divisione in una zona un pochettino più avanzata da trequartista perché ha i piedi buoni, perché è uno capace dell'ultimo passaggio. Però poi adesso Zeman l'ha rimesso davanti alla difesa, e anche il nazionale Under 21 esordito pochi mesi fa perché c'era squalificato Marrone alla prima partita in coppia con Florenzi. Insomma, io ho parlato con Ciro Ferrara quando è venuto da noi per la Champions, mi ha detto: mazza, oh, che personalità, cioè un 92 che all'esordio gioca nemmeno in un ruolo, diciamo, come col Pescara, perché Pescara gioca a 3 a centrocampo, sì. Giocavano a 2, era 4-2-3-1 quella della nazionale Under 21 nell'occasione della partita contro la Francia. Insomma, un giocatore così, averne, così come Ciro Immobile, che non è una rivelazione, perché quando era nella primavera del Juventus faceva caterve di gol, doveva solo dopo la stagione passata trovare un giocatore che gli desse fiducia, perché lui ha fatto a metà Siena, Grosseto. Insomma, Ciro ha bisogno di sentire una persona che appunto gli crede in lui, tutta la squadra poi finalizzata per le sue sì. caratteristiche di bomber. È un 90, quindi rispetto a Verratti c'ha 2 anni in più. Poi Insigne, io sono rimasto assolutamente abbagliato da quello che ha fatto, dalla capacità, perché sai, a livello primavera, lui l'anno scorso anche in prima divisione col Foggia ci sta, ti fai determinate certo. giocate, poi però quando arrivi a farle in B e arrivi a farle anche, diciamo, in nazionale, vuol dire che hai veramente una marcia in più. Io gli ho visto fare veramente quest'anno degli uno contro uno, soprattutto in contropiede, degni del, tanto per fare il paragone col mio punto di riferimento per i brevilinea che è Giovinco, robe veramente che faceva Seba alla sua età, o forse un pochettino prima. Sì. Però questo è un signor giocatore. Comunque tutti e tre prontissimi per grandi platee? Per forza, ma anche perché tu hai ragione nel dire, quando un giocatore ha 20, 21, 22 anni non puoi chiamarlo Sbarbatello, non dovrebbe più in un mondo normale, in un mondo sportivo normale, essere considerato un giovane giocatore. È un giocatore oppure non è un giocatore? Sì, diciamo che nella realtà di Pescara, perché poi ci sono loro tre, però io non dimenticherei, centrale difensivo Romagnoli in coppia con Capuano, un 90 e un 91, prima riserva Riccardo Broscoli al Primavera della Roma, classe 90. Insomma, al di là di alcuni tasselli importanti che hanno chiaramente più esperienza, il Pescara quest'anno ha dimostrato che si può fare calcio in Serie B con i giovani. Ma soprattutto che la riforma che vuole fare Albertini ha un senso, perché se il Pescara va in A portando diciamo in auge questi ragazzi, vuol dire che noi possiamo effettivamente svecchiare il nostro movimento utilizzando questi ragazzi che normalmente una società big, sto parlando dei 91 di squadre tipo Inter, Milan, parcheggiano in realtà minori, perché la loro dimensione in questo momento per il percorso di crescita è ancora inferiore rispetto a quella che è. Ma secondo me fanno benissimo, perché hanno bisogno di confrontarsi con un calcio vero, no Paolo? Assolutamente, però a maggior ragione, allora io sarò un po' greve nella mia esposizione, però il campionato di Serie B deve essere veramente una palestra per ragazzi in questa fascia di età. Arriviamo fino ai 25-26 anni, perché ancora, voglio dire, c'è ancora la possibilità noi latini di maturare un pochettino più tardi, però il modello spagnolo significa anche questo, cioè dare fiducia a questa gente e fargli fare un campionato non di esibizione, come si diceva l'anno scorso, e questa famosa nazionale che alla fine non doveva acquisire punti. Lì non impari veramente nulla se non hai la tensione e la paura di una gara ufficiale. Però io sono stufo di vedere in campionato di Serie B gente di 34-35 anni che poi, quando finisce con la Serie B, va a giocare in prima divisione. In prima divisione ci sono i famosi magnati che per un anno investono veramente milioni di euro fregandosene del contributo che dà la FIGC per far utilizzare i giovani, arrivano ai playoff, la squadra non va in Serie B, fallisce, smontiamo Balak e Burattini, questi si sono comunque costruiti una pensione, non dico d'oro, ma di bronzo, perché oramai le cifre cominciano un pochettino a essere inferiori rispetto a molti anni fa, ma se tu vedi adesso, io guardo ogni tanto i tabellini di prima divisione, trovi ancora della gente che 20 anni fa non dico esordiva in Serie B, ma quasi. No, Paolo, sono d'accordo. A fare gol per andare certo. O in C2 o in C1. Sono d'accordissimo su questo discorso, che è applicabile pari a praticamente alla totalità degli sport di squadra italiani, non solo al calcio. Paolo, ti ringrazio e ci risentiamo presto. Va bene. Tanto ciao. Abbiamo tutta l'estate per chiacchierare, poi la moda dei giovani, come sapete, è imperante. Intanto vi ricordo che Destini Incrociati, che viene dopo di noi oggi su Radio 24 naturalmente, parlerà di Maldini e di Baresi, quindi appassionati di calcio, restate collegati. Hanno ragione quelli che scrivono, che ricordano come Bergomi a 19 anni era campione del mondo, come Papa Nicolau, giocatore greco ormai esploso di basket, è del 90, El Shaarawy è 92, gioca nel Milan, sì, gioca a spizzichi e bocconi, e secondo me in questa stagione meno di quanto avrebbe potuto giocare a un certo punto nel Milan. Poteva avere più spazio, mi auguro che ne possa avere di più, e comunque sono giocatori che hanno bisogno di giocare con continuità per capire effettivamente quanto valgono. Tanto ci sono varie dichiarazioni di Mario Balotelli dalla sala stampa azzurra: con Cassano mi trovo molto bene in campo e fuori, forse perché siamo molto simili. Non siamo i più forti, siamo i più chiacchierati. Caro Mario, non ha torto, cosa dici? Oppure i media dicono che questa è l'Italia mia di Cassano, ma ripeto, non siamo i più forti, siamo i più chiacchierati, ha detto ridendo. Vediamo se ne dice qualcun'altra. Non so se Cassano si sente un perseguitato, io no, però sinceramente sono stufo di sentirmi dire che devo crescere di testa. Talvolta certi giudizi sono assai pesanti su di me. Ho pensato ai miei genitori che ci potevano restare male, mentre quando fa esplodere le stanze d'albergo ai genitori ci pensa un po' di meno. Io spero invece che continuino a ripetere che deve diventare uomo, perché ragazzino va bene, ma fino a un certo punto, soprattutto quando ti trovi a avere molti soldi, ma al di là dei soldi molte responsabilità, senza fare troppa facile demagogia. Antonello d'Avellino, buongiorno. Buongiorno, complimenti a lei, anche se ci manca un po' il garantino, sì. Però avete lo stesso stile nel condurre la trasmissione. Sì, tornerà per gli europei, Gigi Garanzini. Ah, va bene, comunque complimenti anche a lei. Grazie. Volevo intervenire a proposito delle decisioni del giudice sportivo, in particolare signor Totel, il quale a proposito ogni tanto interviene per multare qualche società se ci sono dei cori razzisti, ma con due pesi e due misure. In particolare nel caso, ogni volta che la squadra del Napoli si reca in trasferta, viene bersagliata da cori razzisti, di cui il più gentile Vesuvio Lava lì col fuoco. Non è mai intervenuto il giudice sportivo per sanzionare queste società. Allora, innanzitutto io dico, vabbè, questa non mi meraviglio più di tanto che ci sia. Io non, guarda, le dico subito questo, Antonello, io non so rispondere a questa domanda, perché non ho memoria di tutti gli interventi punitivi di Tosel. Che Tosel sia leghista o antimeridionalista lo escluderei. No, però è assurdo che io credo che se viene multato chi fischia l'inno nazionale, allo stesso modo dovrebbe essere multato chi vomita odio e razzismo nei confronti di una qualunque tifoseria. Sì, sì, sì. Inoltre, c'è dubbio. Inoltre volevo aggiungere che questa è l'Italia. Io non mi meraviglio, non mi scandalizzo tanto dei cori razzisti, perché beh, io un po' sì. Siamo anche abituati. Ma no, non ci sono mai l'abitudine a entrarlo. Guardi, quello che è intollerabile è non rispettare i regolamenti. Se ci sono se si verificano determinate condizioni, l'arbitro prende il fischietto e ferma la partita. Dunque non bisogna abituarsi, bisognerebbe cominciare ad applicare le regole. Ma questo è un macro discorso che ci porta ben oltre il campo, il calcio, i cuori razzisti, eccetera, eccetera. Non siamo fatti così, questo è un dato di fatto. Quindi quanto all'abituarsi, no, mai. Mario, provincia di Milano. Mario, provincia di Milano, e due, Mario, provincia di Milano, e tre, tempo scaduto. Allora direi che andiamo al Giro d'Italia. Veicoli commerciali Citroën, dedicati a chi pedala tutto il giorno. Vi presenta Voci dal Giro. Oggi tappa vera e seria, finalmente al Giro d'Italia, oggi tappa con tappone dolomitico, anche se c'è arrivo in discesa, però una tappa di quelle serie che dovrebbero dare un bello scrollone alla classifica. Vi faccio subito la domanda che permetterà al primo che risponde via sms 349-238-6666 di vincere il polsino di Radio 24 che Ivan Basso porta al polso, appunto, in tappa, e che ha autografato per voi. La domanda di oggi è questa: qual è l'unico corridore che ha vinto maglia rosa, verde e ciclamino nella stessa edizione? 349-238-6666, via, votate finché volete, finché potete, anzi, perché non manca moltissimo alla chiusura della trasmissione, 2 minuti e qualcosa. Pier Augusto Stagi dal Giro, ciao! Ciao, buon pomeriggio a tutti. Dacci un rapido flash di cronaca su questa tappa da cui ci aspettiamo molto. Valparola, Duran, Straulanza e Giao. Sì, aspettiamo molto. Intanto c'è una fuga di 5 corri. C'è Matteo Rabottini, Rambo, che ha vinto una bellissima tappa domenica a Piandaresinelli, e all'attacco ancora ha rafforzato la maglia azzurra. Vediamo la maglia azzurra quest'anno. Non è più verde, la maglia del miglior scalatore non è più verde, ma è azzurra, e quindi l'unica nota è questa. Aspettiamo di vedere la battaglia, diciamo, sia in salita che in discesa. Com'è il tempo, Pier Augusto, che in questi giorni è inclemente su tutta Italia? Anche in discesa, con la discesa. Il tempo è inclemente, i cellulari anche, perché facciamo davvero fatica oggi tra le montagne a sentire Pier Augusto Stagi. Speriamo a Cortina d'Ampezzo in una ricezione migliore, perché naturalmente dovrà raccontarci il finale di questa tappa nel GR delle 18, e poi abbiamo alle 19 l'appuntamento quotidiano con Ivan Basso. Allora ci fermiamo qui e andiamo a vivere questa tappa che speriamo finalmente, non dico decisiva, ma che speriamo finalmente dia una faccia a questo giro molto pallido finora. Allora, Marco da Milano rispondendo: Eddy Merckx ha vinto il polsino autografato da Ivan Basso. Grazie a Giorgio Luca, sì, anche a lui, ma soprattutto a Franco Piantanida in redazione, a Pietro Lacorte e Matteo Comes in regia. Ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 14. Ciao a tutti.